tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Trovato il corpo della studentessa cinese scomparsa a Roma, sarebbe stata investita da un treno mentre inseguiva degli scippatori. Proseguono le consultazioni di Mattarella, oggi i gruppi parlamentari minori, Renzi incontra Gentiloni a Palazzo Chigi. Esplosione nel commissariato di Andria in Puglia, ha ferito un addetto alle pulizie, potrebbe essere stato un ordigno. Oggi giornata mondiale contro la corruzione, con noi sarà il sindaco di Cerignola che ha rifiutato una mazzetta. Niente presepe, rischia di offendere atei e musulmani, polemica sulla decisione al cimitero di Cremona. Oltre 1000 gli atleti russi coinvolti nella vicenda del doping di Stato, tra loro 4 medagliati di Sochi e 5 di Londra. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque la cronaca con la morte della ragazza cinese, studentessa di belle arti a Roma, sarebbe stata investita da un treno dopo una rapina. Sentiamo. È di Zhang Yao, la studentessa cinese scomparsa nel nulla, il corpo ritrovato intorno alle 3 della scorsa notte a Tor Sapienza. Proprio in questa zona la ragazza era sparita misteriosamente lunedì dopo essersi recata all'ufficio immigrazione, un palazzo tra la bretella che collega la tangenziale all'autostrada per L'Aquila, la collatina e il campo rom di via Salviati. Lunedì le era stata scippata la borsa, è stata probabilmente investita da un treno in corsa mentre tentava di recuperarla dai suoi borseggiatori. Era al telefono, stava chiacchierando con uno di noi, poi ha iniziato a gridare, avevano testimoniato gli amici. La chiamata è finita così e poi abbiamo perso le sue tracce. Il cadavere è stato ritrovato in pessime condizioni in un cespuglio a ridosso dei binari ferroviari. La ragazza, 21 anni, era arrivata a Roma lo scorso marzo dalla Cina per studiare all'Accademia di Belle Arti di Via di Ripetta. Chiara Piselli, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Siamo alle consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo governo. Andrea Viali, buongiorno. Buongiorno, sì, dunque secondo giorno di consultazioni e al Colle oggi stanno salendo i gruppi parlamentari minori, poi nel pomeriggio a chiudere sarà la Lega Nord in tutto 17 delegazioni, domani sarà invece diciamo la giornata clou con tutti i partiti più rappresentativi. A quanto sembra il presidente Mattarella punta a chiudere la crisi in tempi rapidi e ad arrivare ad una sintesi entro lunedì. Tramontata sembra l'ipotesi di un governo di larghe intese, l'intenzione del capo dello Stato sarebbe quella di rinviare alle Camere Matteo Renzi per verificare se ha ancora una maggioranza pronta a sostenerlo, questo per portare il Paese ad elezioni anticipate in primavera, modificando però prima la legge elettorale con le indicazioni attese dalla consulta a fine gennaio. In realtà c'è da dire che nei giorni scorsi il premier dimissionario ha già detto di non essere disponibile ad un nuovo incarico e se Renzi dovesse confermare questa sua indisponibilità, Mattarella potrebbe decidere di conferire l'incarico ad un altro esponente del Partito Democratico a lui vicino e si parla del ministro degli Esteri Gentiloni, il quale tra l'altro stamattina si è presentato a Palazzo Chigi, dove è rientrato anche lo stesso Renzi che ha passato la giornata di ieri a casa a Pontassieve, e con loro c'è anche il ministro dell'Economia Padoan. Come si dice in questi casi, Simone, la situazione è ancora molto fluida. Quella che è chiara è invece la posizione delle opposizioni, che hanno subito bocciato l'ipotesi di un governo di larghe intese e, con toni diversi, chiedono invece di andare quanto prima ad elezioni anticipate. Per ora è tutto. E ti ringrazio, grazie ad Andrea Viali. Noi torniamo sulla cronaca e andiamo ad Andria, dove c'è stata un'esplosione al commissariato, come sentivate nei titoli. È notizia delle ultime ore, ci aggiorna in diretta Lucia Di Mari della Gazzetta del Mezzogiorno. Lucia, ciao, buongiorno. Buongiorno da Andria, intorno alle 11.30 una esplosione nell'androne del commissariato di polizia di Andria, in una traversa di una strada del centro cittadino, quindi in pieno traffico, in piena attività. Alle 11.30 un operaio della ditta delle pulizie stava appunto pulendo nell'androne del commissariato, in un cestino ha toccato qualcosa, è esplosa questo ordigno di piccole dimensioni, ma chiaramente ha provocato un'esplosione abbastanza forte e le schegge hanno ferito l'operaio, che è stato immediatamente ricoverato, pare abbia anche alcune ustioni importanti. Non è la prima volta che ad Andria si registrano episodi del genere, qualche anno fa la stessa cosa accadde davanti al caserma dei carabinieri. Comunque naturalmente sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Barletta, gli artificieri, per capire anche l'origine di questa, la natura di questo ordigno, e chiaramente le indagini sono appena iniziate ma in corso. Ti ringrazio, grazie Lucia per questo aggiornamento, e noi restiamo in Puglia perché dopo quello della settimana scorsa nel campo di Rignano, nel comune di San Severo, nel Foggiano un nuovo rogo in una tendopoli, in un campo di migranti. È un ragazzo di 20 anni la vittima del violento incendio che si è sviluppato nella notte all'interno del cosiddetto ghetto dei Bulgari, un insediamento di baracche situato in località Pescia, a una ventina di chilometri da Foggia. Il giovane è stato sorpreso dalle fiamme appiccate da una persona in stato di ebbrezza mentre dormiva, non è riuscito a fuggire, così è morto carbonizzato nella sua baracca. È questa la ricostruzione fatta da alcuni testimoni per i quali poco prima dell'incendio si sarebbe verificato anche un violento litigio. Nel rogo sono andate distrutte una ventina di rifugi costruiti con materiali di fortuna e dove vivono circa 300 bulgari, 100 dei quali sono bambini. Si tratta di persone impegnate nei campi nella raccolta di prodotti ortofrutticoli. Questo è il secondo incendio in pochi giorni in uno dei ghetti che ospitano migranti nel Foggiano. Uno precedente era avvenuto al Granghetto, nelle campagne tra San Severo e Rignano. Le fiamme in quell'occasione hanno distrutto un centinaio di baracche del villaggio che ospita numerosi braccianti africani. Un uomo era rimasto contuso e un altro intossicato. In quell'occasione si accertò che il rogo fu causato dal cattivo funzionamento di una stufa. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che parliamo di migranti, oggi in Vaticano l'incontro dei sindaci europei sui rifugiati, e ci sono anche molti sindaci di zone di confine come Calais, Lampedusa e naturalmente Ventimiglia. In linea con noi Enrico Ioculano, che ne è il primo cittadino. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, come stanno procedendo i colloqui? Ma direi bene, gli spunti sono tanti, gli interventi dei sindaci che insomma hanno parlato questa mattina, le grandi capitali europee, sono senz'altro illuminanti rispetto alle politiche che vediamo tutti i giorni adottate dall'Europa. Sì, e per quanto la riguarda, come vanno le cose a Ventimiglia? Ma guardi, siamo in una situazione stazionaria, sempre affrontando sempre la straordinarietà degli eventi. Abbiamo dei numeri che sono stabili, continuano ad esserci rispetto all'anno scorso degli arrivi anche in questa stagione, quindi è l'anomalia di quest'anno, però insomma si tiene duro e si va avanti. La ringrazio, grazie ad Enrico Ioculano, grazie sindaco di Ventimiglia, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Di immigrazione tra l'altro torneremo a parlare più avanti, lo faremo con un sindaco della provincia di Treviso che ha deciso di non registrare all'anagrafe i migranti o richiedenti asilo che si trovano sul suo territorio. Primo appalto per i lavori del terremoto ad Amatrice, ma c'è già l'ombra della camorra. All'incarico di rimuovere le macerie dai paesi terremotati, la HTR di Roma. Un lavoro gigantesco, purtroppo, che svolgerà per 64,8 euro a tonnellata. Il prezzo con il quale il consorzio di cui è capofila ha vinto il primo appalto del doposisma. Rimuovere i detriti è il primo passo per una ricostruzione che, garantì il governo, sarà a prova di infiltrazioni. Ma questa prima assegnazione, denuncia oggi Repubblica, suscita già perplessità. L'HTR è entrata nel 2015 nella white list, ossia l'elenco delle aziende al di sopra di ogni sospetto, ma è ora sotto processo a Firenze per i lavori svolti nel cantiere dell'alta velocità ferroviaria. Traffico di rifiuti e truffa sono le accuse. In più, in quello stesso cantiere affidò il trasporto materiali ai camion di un'impresa casertana che la direzione distrettuale antimafia riconduce al clan dei Casalesi. Tutte questioni note, scrive sempre Repubblica, ma la struttura di vigilanza sulla ricostruzione post-sisma si è appena insediata, mentre le ruspe sono già in azione. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Nebbia e alta pressione. Scattano i primi provvedimenti antismog con blocchi del traffico nel fine settimana. Misure utili ma solo emergenziali, lo dice Francesco Forastiere, esperto del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio. Sentiamolo. Quelli sono provvedimenti di emergenza che ovviamente servono a stabilizzare la situazione di inquinamento. È come, io dico sempre, è come quando in una situazione, in una stanza le finestre sono chiuse, si chiede se ci sono dei fumatori, si chiede ai fumatori di non fumare. Ma al di là degli interventi di emergenza abbiamo la necessità di ripensare, di ristrutturare completamente la circolazione nella città, di limitare il veicolo privato e di avere un grande sviluppo del trasporto pubblico. Dunque, lei vive a Roma, giusto? Sì. I livelli di inquinamento della capitale. Abbiamo una situazione di inquinamento che continua a essere preoccupante. Noi la nostra stima come Dipartimento di Epidemiologia è di circa 1000 decessi prematuri all'anno causati dall'inquinamento atmosferico a Roma. Quindi, come abbiamo letto nei giornali in questi giorni, dire che a Taranto c'è l'aria come a Roma, in realtà non si fa un complimento e ne si tranquillizzano gli abitanti di Taranto. No, è un paragone assolutamente infelice. Se Taranto è come Roma, vuol dire che la situazione è molto grave. E questo dunque è il fronte dello smog in questi giorni, come sapete, in questi giorni di lungo ponte. Vi stiamo portando in alcune delle località sciistiche principali d'Italia per vedere come inizia la stagione, proprio perché questo ponte, il ponte dell'Immacolata, è classicamente il momento e tradizionalmente il momento nel quale si parte per la prima sciata dell'anno. Dunque, quasi tutte le località sono pronte, non manca neanche la neve. Dario Ceccarelli ha intervistato Martina Bormolini della scuola sci e dell'ufficio turistico di Livigno. Abbiamo già avuto delle nevicate, in quota le piste sono molto buone, abbiamo più di 50 centimetri. In paese aspettiamo ulteriori nevicate per poter vedere tutto il paesaggio completamente bianco, anche se appunto la pista già a fondo è già funzionante e anche quella da fat bike. Nel tempo i gusti dei turisti sono cambiati? Noi riteniamo che sia cambiato perché il turista adesso cerca l'attività alternativa. Quindi dopo una giornata sugli sci, la giornata non si conclude più con una giornata sugli sci, ma vuole altro, vuole rilassarsi, vuole anche, diciamo, tutta quella parte legata al benessere, legata alla gastronomia, e per questo abbiamo creato questo nuovo centro che si chiama Acqua Granda, dove sia sportivi possono allenarsi, ma anche le famiglie. Abbiamo tutta una nuovissima parte con scivoli in acqua, quindi perfetto dopo una giornata sugli sci, e anche la parte benessere tra saune, bagni turchi e queste gettate di vapore tipiche dell'Austria, dove potersi veramente rilassare e, dopo una giornata sugli sci. Le previsioni per quest'anno sono buone? Noi abbiamo molta gente proveniente da paesi esteri, quindi soprattutto Germania, Svizzera, Austria, ma anche paesi del nord come Finlandia, Norvegia. E quindi abbiamo un bel mix di gente che ci viene a trovare durante tutto l'inverno. Soprattutto poi il periodo natalizio è un grande richiamo, perché abbiamo proprio queste luci che fanno da padrone, quindi un ospite che viene a trovarci in questo periodo si trova proprio completamente avvolto da quest'aria natalizia, i mercatini di Natale, piuttosto che la fiaccolata che viene fatta a Capodanno per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo come sempre il nostro giro per l'Italia, anche se in parte l'abbiamo già fatto, molte storie di cronaca nella giornata di oggi. Non prima di avervi dato un aggiornamento per quanto riguarda la crisi di governo. Ebbene, avete sentito nella prima parte, all'inizio della trasmissione, che abbiamo parlato delle consultazioni che sta tenendo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dall'altra parte, nell'altro palazzo istituzionale al centro di tutto, che è Palazzo Chigi, la sede del governo. Si stanno tenendo una serie di incontri del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio dimissionario Matteo Renzi, con alcuni suoi ministri, dei quali si è ipotizzato che potesse, ai quali si è ipotizzato che potesse essere conferito l'incarico. Matteo Renzi ha incontrato Paolo Gentiloni, il ministro degli esteri, e adesso ha incontrato anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che è stato a Palazzo Chigi per circa mezz'ora. Vedremo dunque come andrà nelle prossime ore. Intanto ci fermiamo, c'è il traffico, come si diceva. Iniziamo il nostro giro per l'Italia e inizieremo dalla Puglia, da Cerignola, dove c'è questa bella storia, tra l'altro, nel giorno nel quale si celebra la giornata internazionale contro la corruzione, di un sindaco, Franco Metta, che è il sindaco di Cerignola, ha ricevuto un pacco, dentro c'erano dei soldi, non solo ha rifiutato ma ha denunciato. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di cronaca con il ritrovamento del corpo della studentessa cinese che era scomparsa a Roma, sarebbe stata investita da un treno mentre inseguiva degli scippatori. Abbiamo parlato della politica con le consultazioni appunto di Mattarella, oggi i gruppi parlamentari minori, e poi appunto Renzi ha incontrato Gentiloni e Padoan a Palazzo Chigi. Abbiamo parlato dell'esplosione avvenuta nel commissariato di Andria, del ferimento di un addetto alle pulizie, potrebbe essere stato un ordigno. Adesso ci occupiamo di corruzione e nel nostro giro per l'Italia andiamo a Cerignola, siamo in Puglia. Oggi è la giornata internazionale contro la corruzione ed è proprio oggi che emerge la storia di Franco Metta, sindaco di Cerignola, che è in linea con noi. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. Se non ricordo male, tra l'altro, sindaco, lei era salito all'onore delle cronache per ben altra vicenda prima, no? Quel rimprovero allo studente al quale aveva detto che si era fatto bocciare, stronzo che sei, ti spezzo le gambe, se non ricordo male. Ha funzionato, sa, adesso la scuola è con buon profitto. Evidentemente ha funzionato, insomma. Senta, sindaco, però vogliamo parlare d'altro oggi, vogliamo parlare di questo pacco che ha ricevuto, all'apparenza era un pacco di biscotti, dentro quanti soldi c'erano? 20.000 euro. 20.000 euro c'erano, insomma, quindi una discreta cifretta, insomma. Insomma. Non disprezzabile. Lei quanto guadagna da sindaco? 2.000 euro al mese netti. 2.000 euro al mese netti, quindi sono 10 stipendi. Erano 10 stipendi di sindaco. Sono gli stipendi di un anno. Senta, ma chi gliel'ha consegnata questa Il signor Rocco Bonassisa. Ma chi è, un imprenditore? Un imprenditore che si occupa di rifiuti. E voleva l'appalto. E che era interessato, sì, a un progetto di finanza per realizzare il sesto lotto della nostra discarica. Sesto lotto della discarica voleva realizzare. Lei quando ha visto questo pacco, che cosa ha fatto? Ma guarda, il pacco era totalmente innocente, nemmeno troppo voluminoso, tipicamente natalizio, Babbo Natale, candele, colori, quindi non ho pensato a nulla di male. Me l'ha porto, mi ha fatto gli auguri di Natale, ho ricambiato gli auguri e non ho certamente avuto nessuna perplessità a ricevermi quello che mi sembrava un modestissimo pensiero augurale natalizio. Poi quando abbiamo aperto, perché io ero in compagnia di altre persone del mio staff, abbiamo aperto il pacco, abbiamo trovato il denaro. 20 secondi dopo abbiamo chiamato la polizia e i carabinieri, i primi ad arrivare sono stati i poliziotti, hanno messo tutto sotto sequestro, hanno documentato tutto e raccolto la mia denuncia. La sua denuncia, immagino anche le testimonianze delle persone che erano con lei, no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è qualche ascoltatore che dice, no, è triste che faccia notizia un sindaco che rifiuta la mazzetta, ma in realtà probabilmente sono tantissimi, no? Lei ha anticipato una cosa che avrei voluto e che voglio dire. Non dobbiamo fare questa valutazione. Non è che sono pochi i sindaci onesti. Secondo me ce ne sono e sono la maggioranza. Io invece direi che i sindaci onesti devono stare attenti a denunciare questi fatti, perché molte volte gli imprenditori che intendono perdere queste scorciatoie contano su un fatto: o il sindaco prende i soldi, è un corrotto e diventa il mio servo il giorno dopo, oppure il sindaco li respinge, magari mi farà una lavata di testa, magari mi riempirà di improperi, però poi me li restituisce e si tiene per sé l'incidente. Invece occorre denunciare. Ma secondo lei perché lo fanno dei suoi colleghi? Perché non denunciano i suoi colleghi? Per quieto vivere, che qualche volta si fa un ragionamento di quieto vivere, di evitare, non ci dobbiamo sentire, quasi che ci sentissimo noi imbarazzati. Noi, se succedono queste cose, non dobbiamo avere nessuna remora, dobbiamo denunciare, perché solo così escludiamo dal circuito del rapporto con la pubblica amministrazione gli imprenditori che si comportano male, gli imprenditori che puntano alla corruzione. È importantissimo denunciare. E lei immagino inviti anche i suoi colleghi a dar pubblicità a questo, un po' come ha fatto lei, no? Ma naturalmente, perché guardi, la tentazione non di prendere i soldi, ma di restituire i soldi e far scendere un velo di silenzio sull'episodio è fortissima, la tentazione è fortissima, e facendo così aiutiamo soltanto gli imprenditori disinvolti. Adesso ci penseranno bene prima di ripetere operazioni del genere a Cerignola e in tutto il resto d'Italia, spero. Senta, c'è qualche ascoltatore che dice guardi che guardate, il sindaco ha denunciato solamente perché aveva altra gente intorno e non poteva fare altro. Beh, questo spettatore, questo ascoltatore, perché giudica il mio livello di onestà? Io avrei potuto dire state tutti zitti e teniamoci i soldi. Guardi, io a me non mi è passato nemmeno nell'anticamera del cervello tenere quei soldi, non li avrei tenuti. Se fossero stati 10 volte, 100 volte di più, non li avrei tenuti se li avessi ricevuti da solo. E poi, se qualcuno ha qualcosa da nascondere, evita di essere così chiaro, così trasparente anche con le persone che gli sono a fianco. È ovvio che adesso tutti quelli a cui sto un po' sullo stomaco, non so, il processo all'intenzione, pensi che una pazza ha appena scritto su un social che è tutta una bufala e che io non avrei fatto una messa in scena, sicuri. Vabbè, vogliono scoraggiare. Là c'è una denuncia e quindi è facilmente verificabile, insomma. Ma c'è una telecamera che ha ripreso questo signore con il pacchettino in mano, e quel pacchettino chiaramente identificabile, oltre che il signore chiaramente identificato da me, è identificato perché la polizia l'ha trovato sullo tavolo della mia stanza, lo stesso pacchettino che il signore trasportava quando è stato ripreso dalla telecamera. Eppure qualche demente continua a sostenere che è male che io abbia denunciato, perché tutta una messa in scena, mi sto facendo pubblicità. E in Italia è difficile pure essere onesti. La ringrazio, grazie sindaco, buona Prego, giornata. Grazie a lei, arrivederci. E adesso nel nostro giro per l'Italia andiamo a Cremona. La notizia l'abbiamo trovata sulle pagine lombarde del Corriere della Sera. Il titolo è questo: via il presepe dal cimitero per rispetto per gli islamici sepolti. Salutiamo Don Sante Bragé, che è il responsabile di questa decisione. Don Sante, che è successo? Allora, premetto che io è dall'inizio anno che faccio il cappellano qui al cimitero, alla chiesa del cimitero, e però è un rientro perché già avevo fatto il cappellano dal 93 al 2000 e non c'era mai stato problema di presepi, perché non c'era mai stato né con me e neppure per 30 anni gestita dai frati la cappella del cimitero. Poi è arrivato il suo successore, poi è arrivato il suo successore e ha deciso di metterlo. Però sospinto dall'assessore dell'altra diciamo amministrazione della Lega, siccome è lui responsabile anche del personale, assieme al personale del cimitero, quindi che non dipende da me, io non posso andare al personale a dire facciamo il presepio, anche perché potrebbero rispondermi male. Allora, visto che io non ho questo incarico, non conosco il responsabile del cimitero, avevo detto quello del giornale, cioè non è che non voglio, non posso, visto che non si è fatto avanti nessuno, siamo già al 7, all'8 di dicembre, e se non vedo, non sento nessuno, io non posso prendere decisioni, quindi lo faccio in chiesa. Don Sante, però mi scusi, il fatto che ci siano dei musulmani sepolti nel cimitero civico non c'entra niente con questa decisione? No, ma non c'entra niente. Però mi scusi, io leggo le sue dichiarazioni al Corriere della Sera, nella quale dice un piccolo angolo del Camposanto è riservato alle tombe degli islamici, un presepio collocato in Bella Vista potrebbe mancare di rispetto ai fedeli delle altre religioni, islamici, indù, sì, atei anche. Sì, anche i funerali civili sono tutti sepolti qua. Cioè, però siccome ho visto che, diciamo, quando ho iniziato qui e dopo le feste per due mesi è rimasto ancora tutto lì fermo, anzi tutto tutto il materiale. Ma quindi lei pensa, mi scusi Don Sante, che possa urtare la sensibilità di queste persone? Proprio. Infatti al giornale alla provincia che mi aveva chiamato, io ho detto, ho visto che venendo che c'era il presidente, mi sono chiesto come mai. E sai, l'altro amministratore era dalla Lega, era il periodo dove c'erano discussioni se fare i presepi, le recite a scuola, via dicendo, e quindi diciamo dallo scorso anno non c'è più l'altro amministratore. È venuto qualcuno da lei a lamentarsi, cioè qualche musulmano, ateo, no? No, per il presepe. Non scherzano, anzi... Per fortuna la moschia vicina, che almeno quando passano ci salutiamo almeno. Anche perché attaccata al cimitero c'è la moschia, ma bella grande anche. Ah, è bella grande. Vabbè, al di là di pensare ai musulmani, detto, cioè non lo faccio per rispetto di tutti, poi non c'è mai stato, basta, cioè lo faccio in chiesa perché non è una cattedrale. Però non c'era nessun motivo, infatti adesso mi hanno detto perché... ho capito. Adesso l'avevo appena mandato un messaggio al giornalista che non conosco nome, che mi ha chiamato ieri, ha detto, cioè è solo che lui ha scritto e il sacerdote non vuole, no, gli ha detto io non posso. Non può. Perché sì, ma l'abbiamo letto sul Corriere della Sera. Abbiamo letto sul Corriere della Sera. Grazie. Ecco, è un conto, grazie, potere, Don Sante. Detto, un conto volere, cioè io non ho capito. Voglio. Ho capito. Grazie Don Sante, grazie. Prego, auguri. Salve a lei, auguri, buon Natale. Così dunque Don Sante, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, parleremo ancora di immigrazione e poi andremo a Praga, come sapete il venerdì ce la pigliamo sempre un po' più leggera, andremo a Genova dove a quanto pare si vuole vietare la piazza al gioco a palla dei bambini, un super classico delle amministrazioni comunali, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. È stato trovato il corpo della studentessa cinese scomparsa a Roma, sarebbe stata investita da un treno mentre inseguiva degli scippatori. Proseguono le consultazioni di Mattarella, oggi i gruppi parlamentari minori, Renzi ha incontrato a Palazzo Chigi tanto il ministro degli esteri Gentiloni quanto il ministro dell'economia Padoan. Esplosione nel commissariato di Andria in Puglia, ferito un addetto alle pulizie, potrebbe essere stato un ordigno. E la notizia di pochi istanti fa è che la polizia brasiliana ha arrestato 6 persone, disposto il fermo di un adolescente accusati di aver partecipato all'omicidio di Roberto Bardella, il 52enne di Jesolo, ucciso ieri da alcuni trafficanti dopo essere entrato per sbaglio con la sua moto nella favela Morro dos Prazeres di Rio de Janeiro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. E adesso nel nostro giro per l'Italia andiamo ad Oderzo e siamo in provincia di Treviso e torniamo e continuiamo ad occuparci di immigrazione. Cosa succede ad Oderzo? C'è un ex caserma, l'ex caserma Zanusso, nella quale sono ospitati 400 tra richiedenti asilo e migranti, tra l'altro in una struttura che potrebbe ospitarne solamente 140, e il sindaco Maria Scardellato, che è in linea con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha deciso di non registrare queste persone all'anagrafe, nonostante, secondo quanto riferiscono tanto dalla prefettura quanto al Dipartimento Immigrazione del Viminale, c'è una legge che lo prevederebbe. È così, sindaco? Allora, il numero esatto dei richiedenti asilo ospitati nella struttura di Oderzo non ci è noto, cioè il numero esatto non è noto. La struttura era dimensionata in un primo momento, cioè non è neanche una struttura perché non è stata restaurata, al momento è una struttura provvisoria, temporanea, con degli allestimenti, delle tensostrutture. Era stata dimensionata in un primo momento per 144, poi estesa a 280. Adesso sicuramente sono di più di 280, ma non sappiamo esattamente quanti. Allora, io non è che mi rifiuti di applicare cambiare una legge, è che non trovo riscontro legislativo a questo ordine, se ordine è. Per il momento non ho nessun ordine, per il momento io dico non riscontro nelle leggi, dallo studio che ho fatto, non riscontro nelle leggi questo obbligo. L'iscrizione all'anagrafe, che vantaggi consente a queste persone? Allora, il rilascio della carta d'identità e poi l'accesso ai servizi sociali e tutti i diritti di normali cittadini. È che finora nessuno mi ha detto qual è la legge che devo rispettare. Ci sono note, ma non c'è né legge né circolari, non c'è nessun atto ufficiale. C'è dietro questo sindaco c'è anche una battaglia politica, mi sembra di capire, perché lei dice noi non sappiamo, questi declinano le loro identità per così dire, ma noi non siamo certi che siano quelle che ci danno. Ma è chiaro, sono alle generalità, sono autodichiarate, nei documenti stessi della questura c'è scritto generalità sconosciute, esatte generalità sconosciute, poi c'è un nome autodichiarato, un'età di nascita autodichiarata che tra l'altro da Pozzallo a Treviso è già cambiata e quindi è ovvio che non è attendibile. Poi i due requisiti che sono necessari per l'iscrizione all'anagrafe sono: una, la dimora abituale per 3 mesi nel comune in questione, e questo può esserci perché c'è la legge del 2015 che riconosce i centri di accoglienza come dimora abituali, e quindi questo sì è riconosciuto per legge. Ma il secondo requisito, che è quello dell'identità, quando si dice, ma non c'è scritto in nessuna legge, che il permesso di soggiorno è equipollente a una carta d'identità, io non lo trovo scritto da nessuna parte come legge e lo trovo folle, perché non può essere equipollente alla carta d'identità, perché la persona è schedata ma non è identificata. Nel momento in cui rilasciano il permesso di soggiorno, è un documento rilasciato dalla questura con la fotografia. In quel momento la persona viene fotosegnalata e vengono prese le impronte digitali, ma nulla si sa delle generalità esatte della persona e di quello che la persona ha fatto prima nella sua vita precedente alla schedatura. Ascolti, per cui, come ripeto, le generalità non sono certe. Non sono certe. Ascolti, nel caso la prefettura le dovesse rispondere dicendole: guardi, la legge è questa, deve applicarla, deve registrare queste persone all'anagrafe, deve fornir loro un documento di identità, lei ha intenzione di farlo fare dagli uffici del comune oppure, come dire, di proseguire quella che ritiene essere appunto anche una battaglia politica? No, se mi dice qual è la legge, se io trovo una legge dove c'è scritto, la applico, oppure se mi dà un ordine, perché la delega è una delega prefettizia, la delega all'anagrafe, quindi se me lo impongono io eseguo, ma o mi devono dare il numero della legge, sì, il riferimento normativo, o mi devono dare un ordine. Perché tra l'altro su questo c'è il Presidente della Regione, suo collega di partito peraltro, Luca Zaia, che dice è un esempio, lo dovrebbero fare tutti i sindaci. Certo, perché allora io ho già visto una circolare del Ministero di agosto e la circolare comincia così: il quadro normativo sembra essere certo. Sembra essere certo non mi soddisfa, perché o sembra o è certo. Quindi o qualcuno mi dà certezze o su un sembra essere certo molto italiana, io non iscrivo. Molto italiana come circolare. Non iscrivo su un sembra essere certo. Qualcuno mi deve dare la certezza o un ordine. La ringrazio. Grazie Maria Scardellato, sindaco di Oderzo, per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie, buongiorno. E come sempre passiamo ad una storia più leggera. In chiusura il venerdì, la battaglia nel ponente genovese a Pra per il fatto che i bambini possano continuare a giocare a pallone in piazza. Sono state messe delle fioriere per evitare tutto questo. Se ne sta occupando Claudio Chiarotti, che è consigliere del municipio VII. Buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ma non li volete far giocare a pallone questi bambini in piazza? Ma insomma, dai. Stavo seguendo poco fa l'intervista di prima e vedo che l'argomento era nettamente più di spessore, ma è molto semplice la questione: non c'è niente di tutto quello che viene scritto e detto in questi giorni sul giornale. Mi dispiace che abbia preso questa piega. Una questione che sostanzialmente abbastanza. Quindi si rifugia Chiarotti dietro un classico: è colpa dei giornalisti. No, assolutamente no. No, a me piacerebbe. No, questo non mi permetterei mai, perché ciascuno ha il proprio lavoro. Ma però, insomma, a Pra i bambini possono giocare a pallone in piazza no? Sì o no? Io non sono l'autorità preposta a vedere se un bambino può giocare in piazza. Personalmente io direi di sì, peccato solo che comunque il regolamento comunale non lo preveda, ma in questa città come in tante altre. Detto questo, il municipio ha fatto proprio un'istanza di un'attività commerciale che lamentava la convivenza, diciamo, con questo tipo di attività davanti al proprio esercizio. Abbiamo cercato di vedere se si poteva ovviare in qualche modo, in accordo con la polizia municipale che veniva ripetutamente coinvolta per questo tipo di disagio. Il municipio ha semplicemente pensato di trovare una soluzione che potesse far convivere queste due situazioni: i bimbetti che giocano su una piazza è la cosa più normale di questo mondo, lo commento con lei, ma vorrei gridarlo con forza, nel senso che nessuno ha mai pensato di ostacolare il gioco di bimbetti in piazza. Chiarotti, da come me la racconta parliamoci chiaro. C'era un commerciante, uno che rompeva le scatole e l'ha rotte talmente tanto che per togliervi questo problema avete messo le fioriere e avete impedito ai bambini di giocare. No, tra le altre cose è qua proprio il messaggio sbagliato. Le fioriere che abbiamo allocato nella piazzetta non impedivano di giocare ai bambini. È stata proprio la soluzione, diciamo, di convenienza per entrambe le situazioni. Proprio per questo abbiamo pensato a delle fioriere, nel senso che non ostacolavano il gioco dei bimbetti, semplicemente evitavano che la palla, qualora giocassero a pallone, finisse nella vetrina, ma la piazzetta è completamente sgombera, possono continuare a giocare. Il commerciante si lamenta ancora oppure no? Basta, smesso. Il commerciante si lamenta per il fatto che noi la fioriera l'abbiamo sistemata e il giorno dopo erano sostate, ma non è mai contento, Chiarotti. No, ma io non posso entrare nel merito di chi abbia ragione, io gli dico, è legittima la richiesta che ha fatto, perché il municipio deve ascoltare praticamente tutti quelli che pongono un'istanza di questo tipo. Guardi, abbiamo 20 secondi, quindi i bambini possono andare a giocare a pallone in piazza? Quello io non glielo posso dire perché nel regolamento del Comune di Genova è vietato, però i bambini possono continuare a giocare su quella piazzetta perché le fioriere non ostacolano il gioco, assolutamente. Va bene, quindi bambini di Pra possono continuare state a giocare tranquilli. Anche con le fioriere, naturalmente se le fioriere continuassero a essere spostate noi ci dovremmo costretti a toglierle e allocare da un'altra parte, con tutte le conseguenze del caso, che per il municipio le ha provate tutte. Grazie buona Claudio Chiarotti, buona giornata e buona partita di pallone sulla piazzetta di Pra. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.